E quindi, sempre all'ascolto del martedì autogestito da femministe e lesbiche, abbiamo in collegamento una compagna del centro Donna Lisa. Ciao, ci senti? Sì. Sì, ciao, mi sento un po' Ciao. lontano, mi sento. Ciao a tutte. Ciao, noi ti abbiamo richiamata perché 2 settimane fa avevamo parlato di questo caso del consultorio di Via Lina Cavalieri, per chi non conoscesse la zona un po' tra Fidene e Serpentara, dopo Montesacro, che è stato riaperto dopo 2 anni, quindi in teoria è una bellissima notizia. È stato riaperto da 2 anni, però ci sono dei problemi rispetto a questo. Tu, insomma, quell'altra compagna ci raccontavate l'altra volta che diciamo che questo servizio non va benissimo, che ci sono dei problemi. Sì, in realtà il servizio, appunto, come dicevi, è stato riaperto dopo 2 anni di chiusura con, diciamo così, la motivazione ufficiale era che era un luogo in ristrutturazione. Dopo 2 anni è stato riaperto, ma è stato riaperto, diciamo così, su pressione dell'Assemblea delle Donne, perché io sono appunto del Centro Donna Lisa, ma il Centro Donna Lisa è stata, diciamo così, quello che ha dato il là all'Assemblea delle Donne. Noi ci siamo costituite, diciamo così, circa 1 anno e mezzo fa, quando c'era la proposta, c'era tutto il movimento delle donne contro la proposta di legge Tarzia. Poi chiaramente assemblee su assemblee, diciamo così, che siamo andate oltre quello di Sì. noi stesse, e quindi oggi si è costituita l'Assemblea delle Donne dei Consultori del Quarto Municipio. E appunto, il primo obiettivo dell'Assemblea proprio era sicuramente respingere la proposta di legge Tarzia, che mirava appunto allo svuotamento dei consultori, ma soprattutto rilanciare l'idea del consultorio e dei servizi socio-sanitari. E il primo obiettivo è stato quello: vogliamo riaprire il terzo consultorio. Noi siamo un municipio di 204.000 abitanti, per legge ce ne spetterebbero più di 10, ne avevamo a malapena 2. Quindi su assemblee abbiamo fatto, insomma, anche dei volantinaggi, raccolte di firme e incontri con la dirigenza sanitaria e la responsabile dei tre consultori del quarto municipio. E finalmente, diciamo così, a settembre è stato riaperto il terzo consultorio, però dopo 2 mesi il consultorio è stato richiuso perché c'era un problema di agibilità, in quanto non funzionava tutto l'impianto di riscaldamento. Quindi altri incontri, altre pressioni, finalmente grande annuncio, il consultorio viene riaperto. Quando è stato riaperto, insomma, con somma sorpresa abbiamo visto che il consultorio innanzitutto viene riaperto, ma non come credevamo noi, come struttura funzionante a pieno tutti i giorni, bensì 2 volte a settimana e mezza giornata, con un servizio solo di ginecologia. E quando siamo andate, diciamo così, a vedere, finalmente dopo 2 anni che abbiamo il nostro consultorio, in realtà abbiamo trovato, diciamo così, un'operatrice sanitaria abbastanza arrabbiata con noi, perché ecco, avete fatto riaprire il consultorio, io non riesco a lavorare, qui fa freddo, non si può operare, eccetera, e soprattutto era anche un consultorio vuoto. E quindi da qui abbiamo cominciato a chiedere e vedere, e in realtà il consultorio sì, è stato riaperto, ma nessuno nel nostro territorio lo sa. Non ci sono insegne, non ci sono cartelli, e soprattutto, tra l'altro, è stato riaperto spostando, diciamo così, l'operatrice da un consultorio all'altro. Per cui ci siamo, appunto, un'assemblea, ci siamo riunite e abbiamo cominciato a dire: sì, va bene, cioè, finalmente, come dire, ci hanno dato il contentino, hanno riaperto il consultorio, ma che ci facciamo di un consultorio che non funziona? E quindi abbiamo deciso che per sabato 12 maggio la mattina faremo una mobilitazione, diciamo, di parte proprio di quel territorio, innanzitutto per far sapere proprio che, cioè, il consultorio esiste ed è aperto, perché molti non lo sanno, cioè tutti gli abitanti proprio in zona limitrofe, tra l'altro è un consultorio che è situato in un primo piano di una palazzina, in una vietta un po' nascosta, se non c'è un'insegna Quindi non non sa lo nessuno. troverà mai nessuna. Esattamente. E quindi faremo una mobilitazione molto, come dire, di visibilità, vogliamo essere molto rumorose, per appunto porre l'attenzione del fatto, cioè, a tutte quante, che esiste questo consultorio, ma questo consultorio non funziona. Dopodiché il prossimo obiettivo è quello di riandare un'altra volta ad un incontro col dirigente sanitario e chiedere anche conto, perché tra l'altro, insomma, se è stato chiuso per 2 anni per ristrutturazione, richiuso dopo 2 anni per l'impianto di riscaldamento, lo dovevano risistemare, ci ritroviamo, no, da capo a 12 esattamente con lo stesso problema. Insomma, vogliamo tenere, cioè, chiedere conto anche dei soldi nostri, perché sono soldi pubblici, come vengono impiegati, che fine hanno fatto, perché è ancora in questa situazione. E poi soprattutto chiediamo che, insomma, veramente, cioè, non è, si può riaprire un consultorio, come dire, in qualche modo svuotandone un altro, no? Perché poi così Sì, fanno funzionato. girare le donne come delle trottole, perché poi se mi fai andare la ginecologa dell'altro consultorio vuol dire che l'altro rimane scoperto. Esattamente, e poi soprattutto c'è una situazione laddove appunto nei 3 consultori in questo municipio ci sono 2 ginecologhe, una è andata in pensione e non viene sostituita, come altrettanto è stata fatta per la pediatra. E poi anche, cioè, a noi non va bene che diciamo così che è un consultorio aperto appunto proprio 2 mezze giornate e poi solamente con un servizio di ginecologia, insomma noi vorremmo anche riportare all'attenzione quello che era lo scopo dei consultori pubblici, e quindi non sono solo diciamo degli ambulatori, bensì dovrebbero, come dire, trattare quello che è la salute riproduttiva e non la sessualità delle donne anche con un'ottica di prevenzione. Sì, dovrebbero svolgere un ruolo che è veramente ampio a 360 gradi, e poi io poi sono, insomma, sai, di quella zona, quindi li ho usati. Ah, perfetto. Sì, li ho usati, insomma, i consultori per tanti anni, però mi rendo conto magari tante ragazze adesso forse non lo sanno che sono gratuite, quindi io questa cosa la vorrei ribadire, non serve la ricetta, in realtà c'è assoluta discrezione, e soprattutto una volta l'anno ti mandano a casa, appena fai 18 anni di solito ti mandano a casa l'invito per fare il pap test, gratuito, anonimo, quindi insomma è un servizio che andrebbe conservato, poi è chiaro con tutti i suoi limiti, insomma, però va assolutamente conservato. Sicuramente e soprattutto rilanciato, insomma, appunto, come dicevi, è un servizio gratuito. Non bisogna tagliare nessun ticket, nonostante, no, molto spesso ci sono riforme, cioè, poi soprattutto non viene chiesto per esempio nessun permesso di soggiorno, anche qua, no? I consultori dovrebbero anche avere questo, cioè, avere funzione a rilanciare rispetto anche a molte donne migranti, soprattutto nel nostro territorio. Sì, è vero, è verissimo, hai fatto bene a fare questa precisazione. E poi soprattutto è tra i pochi ancora che non hanno il Movimento per la Vita dentro, quindi insomma sono anche abbastanza agibili, no? Beh, soprattutto nonostante i numerosi tentativi per cui vogliono farli rientrare a tutti i costi, perché insomma ormai ci sono proposte di legge regionali che si assomigliano molto, da Torino, passando per la Lombardia, fino ad arrivare a quella del Lazio. Ci sono numerosi tentativi, no, per farvi rientrare, perché poi appunto il consultorio è anche quello che rilascia le certificazioni per, diciamo, per l'IVG, e quindi quello devono essere proprio, insomma, è un elemento in qualche modo dissuatore, cioè per dissuadere le donne a praticare l'interruzione volontaria di gravidanza. Infatti anche con questo scopo noi ci siamo ricostituiti come Assemblea delle Donne, proprio perché intanto come legge ci è, come dire, in qualche modo siamo una figura riconosciuta, e proprio per rientrare noi, no, dentro i consultori e in qualche modo, come dire, cominciare a fare noi la partecipazione e cominciare a mettere noi le nostre mani là dentro, no? Per poter invece far arrivare appunto. Assolutamente, come era per la vita. Come era all'origine, come erano stati pensati da tutte le donne che hanno combattuto per averli. Quindi insomma teniamoceli cari, quindi noi ribadiamo l'appuntamento, lo ricorderemo anche durante la settimana, e magari sicuramente ci sentiamo anche la mattina mentre state lì. Certo. Ricordiamo l'appuntamento quindi il 12 maggio alle 10 di mattina, via Linea Cavalieri, vicino a Angolo Via Farulli. Angolo Via Farulli, insomma, vi vediamo, sicuramente siete tantissime e rumorosissime.